Abbiamo parlato di un accordo così, questa chiacchierata, perché mi pareva opportuno dare qualche notizia sulla ultima parte del mio lavoro intorno al testo della Repubblica, affrontando un argomento che tutto sommato non mi pare tra i più trattati e discussi. Nella storiografia sullo Stato di fine Cinquecento, meglio sulla dottrina dello Stato di fine Cinquecento, con alcune eccezioni naturalmente molto importanti. L'argomento è quello che è trattato nei primi capitoli del libro sesto della Repubblica, è uno dei luoghi meno conosciuti, meno frequentati del testo. Sul grado di conoscenza politologica del nostro secolo e degli ultimi anni ci sarebbero molte cose da dire. Non sto a ricordare quante volte sia stata lamentata la conoscenza ufficiale del testo quotidiano e quante volte sia stato lamentato un fenomeno di concentrazione dell'attenzione degli studiosi su sola parte del testo e sul solo testo in senso stretto, cioè sul testo e non sull'apparato, ampio apparato di allegazioni erudite, allegazioni di fonti retrotestamentarie, quasi mai neotestamentarie, forse una o due volte. Allegazione di fonti vetro-testamentarie, di fonti normative, civilistiche, canonistiche, felinistiche e soprattutto di dottrina. Fonti, naturalmente fonti narrative, diremmo nobili, ma soprattutto fonti giuridiche, fonti legali, ma soprattutto fonti dottrinali. Cospicue allegazioni di dottrina. Dopotutto la è una specie di grande recipiente dentro il quale è stata trasportata dal tardo medioevo, dalla fine del medioevo all'età moderna, buona parte di quei concetti che appartengono alla tradizione giuspolitica, alla tradizione giuridico-politica dell'Occidente, buona parte di quelle cose sacre che i giuristi hanno trasferito da un mondo morente ad un altro, sta in quel contenitore. Non solo come strumentario, ma come materiali che si sono salvati, che sono stati trasferiti, riutilizzati, spesso in una forma che certamente è molto lontana da quella posseduti dal tardo medioevo giuridico e politico, insomma i materiali con i quali è stato poi forgiato un nuovo strumento concettuale, che però ha nella tradizione giuspublicistica tardo medievale le sue basi, buona parte delle sue basi. Il mio lavoro in questi anni è stato quello che prendere il lavoro di edizione del testo, cominciato dalla mia maestra, Margherita Snati, molto tempo fa, cominciato per suggestione di Federico Sciabolo, dall'Istituto Italiano di Studi Storici a Napoli, negli anni 50, a metà degli anni 50, Snati pubblicò nel 64, anno, il primo volume della Repubblica con un'importante introduzione e con l'edizione dei libri 1 e 2, i libri più frequentati, i più importanti, soprattutto il primo, che è quel famosissimo ottavo capitolo sulla sovranità, per il quale è stato così famoso, così citato, ma forse anche così tanto citato, ma così poco letto. Il secondo volume è apparso solo nel del 1988, cioè a 24 anni di distanza dal primo. Io avevo ripreso il lavoro alla fine degli anni 70, cominciando là dove il lavoro del Zinardi si era interrotto, cioè con un terribile capitolo presente solo nell'edizione latina del testo della Repubblica, cioè il capitolo aggiuntivo, l'ultimo del libro terzo, dedicato agli ordines accesi. È il capitolo che nella redazione definitiva francese della Repubblica, che è questa, è del 1583, fa seguito al capitolo sui corpi. Al capitolo sui corpi. Evidentemente è necessario nell'86 nel ritessere un'ultima volta la stessa tela, come lui dice, questa volta in latino, però destinando il libro a una circolazione universale, cioè nell'Europa adotta, ritenne necessario aggiungere un capitolo sui ceti, che io trovo tra le cose più importanti del testo. Capitolo difficilissimo, anche per il rapporto con le fonti, e che mi aveva impegnato per molto tempo. Poi avevo proseguito commentando il libro, tutto il libro quarto, il volume che è apparso nell'88, la traduzione sempre quella della Zinardi, riveduta naturalmente. Il testo, come voi sapete, è costituito come un testo di traduzione, ma come una vera e propria edizione critica, cioè si dà ragione di tutti gli ampliamenti o le soppressioni o le varianti intervenute dalla prima edizione francese, che è del 1576, all'ultima edizione francese, che è dell'83, al rifacimento latino del 1586, con tutte le varianti in nota, e poi c'è un apparato che esplicita tutte le allegazioni bodiniane, sia quelle espresse in forma di allegazione delle truppe, sia quelle tacite, sottintese, che sono anche molte. E c'è una erudizione che si è sempre riconosciuto e straordinaria anche per un secolo erudito e che tutto voleva sapere e che tutto voleva ingoiare, che ragionava, ecco, in questo modo qualche volta, come è stato scritto, fino a sragionare. Un testo come questo, io sostengo ancora oggi, non può essere letto, inteso, se non in questo modo, un modo che naturalmente molto faticoso. Ancora a Monaco nel 70, uno dei maggiori studiosi di questo secolo, cioè Ralph Easy, diceva che insomma era indispensabile poter commentare in modo esaustivo questo testo, e io l'ho provato, adesso sono arrivato un po' in fondo alla cosa, ma quando anni ho dedicato un volume a Modem e ho cercato di dire lì anche un po' quello che non ero riuscito a dire nelle note di questa seconda parte dell'edizione. Un allievo di Easy, che si chiama Kelly, ha recensito sul Journal of Modern History il mio libro, dicendo che è una visione molto, molto in profondità testo, ma chissà se il povero Easy aveva ragione. È un lavoro che rischia di farci diventare matti. Allora, sulla mia salute mentale, ancora, insomma, io credo di poter rassicurare amici, familiari, anche allievi, insomma, spero che non si siano stati segni di demenza precoce. Però, effettivamente, insomma, è un lavoro, è stato un lavoro duro, che adesso ho finito il terzo volume con i libri 5 e 6 e in stampa. Le bozze dovrebbero essere disponibili entro questo mese e io le metterò materialmente a disposizione degli amici studiosi dell'istituto. Il libro dovrebbe essere allestito materialmente, se la UPE tiene ai patti, nel primo trimestre del 97, nel prossimo anno. Perdiamo così l'occasione di far coincidere l'uscita del terzo volume col centenario. carico di Milano che ricorre quest'anno, sono 400 anni delle morti di Bodin. A Torino si pensa di fare un'iniziativa nell'ambito della Fondazione Firpo e del gruppo interuniversitario di ricerca sulla regione Stato che coordino, ma credo che qualche ulteriore occasione di discussione, se non proprio di presentazione, la avremo. Nel sesto libro c'è la parte che ci interessa, che è quella che riguarda le finanze. È il capitolo secondo del libro sesto, è un capitolo, un capitolone, sta qua, questo è il libro scritto, sono circa 120 cartelli, quindi si può dire che si presenti anche all'interno della Repubblica come una delle sezioni certamente più ampie, in forma di, quasi di trattato. Forma di trattato che ha una sua autonomia nell'economia del testo. Parte cospicua, preceduta da un capitolo un po' più breve sulla censura. Censura che per Bodin è insieme il censimento, è insieme lo strumento di accertamento dei soggetti e insieme strumento di correzione dei mores, di disciplinamento. È un capitolo importante quello sulla censura, giusto a precedere il capitolo sulle finanze, proprio perché in quella parte teorizza la necessità dell'assunzione da parte dello Stato la funzione della censura, non solo come appunto, conoscenza della ricchezza, dei beni privati dei soggetti, ma anche come correzione dei costumi, con un lungo giudizio sulla antica funzione della Chiesa, in quest'opera di correzione, che è interessante che andrebbe vista come uno dei momenti di una fase di storico passato, queste cose vedete molto bene, adesso anzi io desidero riprenderle, insomma una fase che è quella dell'età confessionale, della prima organizzazione dello Stato moderno, dell'età nella quale la Chiesa si secolarizza, lo Stato si ecclesiasticizza, così come Paolo ha spiegato bene tante volte. Insomma, un capitolo importante che precede una sorta di trattazione del tema delle finanze che sembrerebbe quasi un primo grande tentativo di ridurre a scienza una materia che fino allora è stata oggetto di trattazioni in ambiti separati, diversi, morale o teologico, politico o semplicemente giuridico. I giuristi sono naturalmente la fonte a cui Bodin è più attento, ma in quel capitolo sembra che Bodin voglia prendere le distanze dai giuristi, soprattutto dai giuristi che in Francia si sono occupati al suo tempo del demanio, primo per tutti René Chopin, che scrive una grande opera sul demanio di Francia. Ecco, io credo che rivedere il testo bodiniano sia importante, non solo perché come tutti sappiamo il testo bodiniano è paradigmatico, ha questo carattere paradigmatico alle origini dello Stato moderno, e non è possibile accostarsi ai problemi della vita degli istituti senza contemporaneamente guardare in profondità alla mentalità e alle tecniche, nel senso più alto, nel senso della dottrina, che hanno accompagnato e seguito la trasformazione degli istituti e l'origine di nuovi istituti giuridici e politici, ma anche perché ho l'impressione che si ritrovino in quel testo molti dei problemi e forse anche qualche cultura, qualche spiraglio su problemi che sono tornati, insomma, in piena evidenza nella storiografia più recente. Io ho in mente, naturalmente, soprattutto quello che un po' tutti insieme abbiamo fatto quando ci siamo ritrovati a Chicago, no? Per lo Stato moderno, gli altri disponibili in quel seminario organizzato dall'Istituto e dall'Istituto di Pearson. C'era una sezione dedicata al problema e anche voluto abbraccia di parte di questo problema. Però a me pare che si debba ripartire pur sempre dal volume che raccoglie i dati della settimana su Fisco, che già è stata un'età confessionale, e mi spiace che tu sia presente perché devo dire qualche parola. Io so che poi può essere scambiata per esagerazione, ma insomma io devo parlare come se tu fossi assente dalla introduzione. Va bene, io ho fatto e non stesso. Posso, occorrerà che noi ci si divida. Perché occorre riprendere le mosse dall'introduzione di Paolo Prodi al volume di Fisco la regione stata un'età confessionale, perché io trovo che quelle pagine stringente di sintesi, ma soprattutto di riproposizione in forma molto, molto, molto schietta, ecco, di problemi cruciali, siano la cosa davvero più significativa che negli ultimi anni noi abbiamo avuto su questo tema. E non solo per quel che riguarda le questioni di metodo, che sono davvero importanti, cioè il superamento di visioni parziali dei problemi. Il convegno già nella sua impostazione allora intese riunire ciò che fino ad ora era separato, visto regioni nel titolo italiano, Kirchen nel titolo tedesco, per ovvie regioni, visto regione Stato nell'età confessionale. Un grosso problema di metodo, perché riunire questi termini significava davvero riunire vedute fino ad ora separate sul problema del fisco tra milioni dell'età moderna, sul problema religioso o sul problema delle istituzioni ecclesiastiche in rapporto alla fiscalità, in rapporto alla prima dimensione dello Stato moderno, il problema dello Stato. Proprio allora parlava di una scommessa con l'accento posto sul terreno economico, ma con attenzione ad un tessuto complesso che naviga tra il politico, il religioso, l'ecclesiastico. Un cammino difficile, non perché ci siano delle singole novità, ma perché si vorrebbe percorrere questa strada complessa. Lo sforzo era quello di delineare un ciclo storico dalla metà del 400 alla metà del 600, dalla metà del 400 del 600, che appunto si può chiamare l'età della confessionalizzazione, il testo di Godanità in mente, ma è stato qui in mente. L'arco cronologico che è caratterizzato dalla prima genesi dello Stato moderno, e si tracciavano già delle ipotesi. L'ipotesi più forte era appunto questa, che il nuovo Stato non si limita ad appropriarsi di quelli ecclesiastici, ma tende ad estendere il interesse e anche il controllo già prima della riforma sull'apparato ecclesiastico. Insieme non si tratta solo di un'appropriazione, ma lo Stato confessionalizzandosi si fa in qualche modo chiesa, assume una nuova entità nella teoria e nella parte politica. In questo quadro di ipotesi, diceva proprio il problema dell'espansione della finanza pubblica e della tassazione, va colto non solo in relazione all'incameramento e allo sfruttamento dei beni ecclesiastici, non solo in relazione al reperimento delle entrate necessarie per la costruzione delle nuove strutture statali, ma cercando di esplorare le interrelazioni più profonde. Ecco, se questo è vero, se l'ipotesi era fondata e fertile, così com'era, è chiaro che l'emergere di una dottrina in questo ambito, l'emergere di una trattatistica al all'interno della prima grande trattatistica sullo Stato moderno, è cosa che dovrebbe attrarre, insomma, la nostra attenzione. E infatti, proprio citava subito la Repubblica. Citava in celebre capitolo VIII del libro primo della Repubblica moderna, in cui il tema delle finanze è posto al centro dei problemi della costruzione dello Stato. Cosa ho detto? No. Mi sembra sempre di non ricordare esattamente questa citazione. Posso assicurare che è vero. Posso assicurare che è vero. Allora, citavi i primi, in questa pagina 10, questa è l'edizione dell'89, no? Visto che già è stata la metà confessionale, quella di Carlo Telemens di Paolo Prodi, l'introduzione di Paolo Prodi, Colonia, un primo, 1989, pagina 10, le nove pagine del celebre capitolo VIII, il libro primo della Repubblica, in cui il tema delle finanze è posto al centro dei problemi della costruzione dello Stato. Citazione: quanto al diritto di imporre ai sudditi gravami e imposte o di esentarne alcuni, questo appartiene a chi detiene il potere di dare la legge e di concedere i privilegi. Potere di dare la legge, potere che riassume il contenuto della sovranità, ha al suo interno anche come prerogativa, come marca, come caratteristica il potere di imporre, il diritto di imporre, il potere di imposizione ai sudditi gravami, imposte o di esentarne alcuni. Questo appartiene a chi detiene il potere di dare la legge e di concedere i privilegi. Non già che lo Stato possa sussistere senza, ma se vi è necessità di imporre o di esentare da esse, ciò non può essere fatto se non da chi ha il potere sovrano. Allora, conclusione, dopo la citazione, il potere di tassazione è uno degli attributi fondamentali della sovranità. Di qui allo studio dei significati, di varie espressioni, soprattutto del concetto di fisco, che sappiamo nella età medievale designare soprattutto il sacro Regis, no? Tanto dove c'è scritto delle pagine verme, sia nel libro più famoso, ma anche in un saggio dal titolo significativo di Petrovic, il Christus Fiscus, no? Il rapporto tra la riflessione teologica e la riflessione politica, il concetto dello Stato fisco come persona fitta. Uno dei passaggi, cioè fondamentali, della spersonalizzazione dello Stato nella creazione della fiscalità, del concetto del fisco come persona fitta. Questo concetto è importantissimo non soltanto per discernere la corona dall'individuo che la porta, l'ufficio del sovrano dalla persona del sovrano, ma anche per comprendere meglio all'interno stesso delle idee e delle mentalità collettive, la dinamica complessa tra il religioso e il politico, tra l'economico e il religioso e il politico. Insomma, schema attraverso il quale un potenziale, in qualche modo sacro e religioso, viene ad esprimersi in nuovi termini, in nuovi concetti politici, il diffondersi del concetto di un patrimonio impersonale, al di là di quella che era la vecchia distinzione tra il patrimonio personale del sovrano e il patrimonio della corona. Insomma, c'è una separazione già per Nocca, come si ricordava, tra l'aspetto di tipo gestionale, l'aspetto di godimento, invece l'appartenenza che crea la persona. Conclusione, non voglio farla troppo lunga, ma insomma, il proprio diceva, credo che dobbiamo sottolineare ancora questa confluenza di una concezione teologica con elementi che derivano dal diritto romano, quindi il diritto romano da una parte e il sistema di tempo dall'altra, per la costruzione di una nuova anima della politica moderna. Nuova anima della politica moderna. Facendo ancora un passo in avanti, ecco, si parlava ancora della Tassazione, il principio stesso della tassazione come elemento di novità della storia moderna, connesso alla formazione appunto della persona fisica del fisco e conseguentemente anche del problema della legittimità morale, prima ancora della legittimità giuridica della imposizione fiscale. E quello che diceva, questo è il problema meno studiato, studiato nella tradizione medievale e meno nella tradizione moderna. Insomma, la battaglia che si apre sulla legittimità dell'imposizione fiscale, che verrà vinta dal nuovo Stato, solo con una lotta secolare, cambierà il modo di vivere nella società europea, permettendo poi gli sviluppi della successiva età delle riforme, su cui soltanto sembra concentrarsi. L'attenzione della civilizzazione. Ecco, in che modo si inserisca il testo quotidiano? Io me lo sono chiesto, no? Me lo sono chiesto proprio studiando, in che modo si inserisca in questo processo, cioè in che modo vi sia, ecco, la possibilità di ritrovare nella dottrina più importante, i temi che sono quelli di un mutamento della coscienza politica fiscale. In rapporto alla tradizione medievale, in rapporto a nuovi orizzonti, che sono quelli che coagularsi, della modernità. Tralascio di parlare del problema posto dal rapporto tra censura pontificia e fiscalità nel tardo medioevo, ancora nella moderna, a proposito della buona igiene domini, del principio della, diciamo così, della sovranità pontificia come giudice del comportamento dei principi in tema di fisco e di imposizione, di tassazione, ricordo solo che c'è un processo che diventa, correggimi se dico eresie, drammatico, soprattutto nell'età Sistina, no? Nel Sisto V, perché è lì che viene cambiando un atteggiamento della Chiesa, che rinunzia, insomma, in qualche modo ad esercitare una funzione di controllo, di censura, laddove venga meno l'antico ideale medievale del principe che si astiene sudditi, che nulla può chiedere ai suoi soggetti più di quelli che i suoi soggetti siano disposti volontariamente a cedergli, per esempio nella forma della donazione. E in realtà la donazione o il donativo è in larga parte ancora nell'età moderna il modo con il quale lo Stato costituisce il suo erario, così come ormai Bonanno chiama, recuperando pienamente il termine della romanità, il donativo, la donazione, ed è questo uno dei punti su cui Bonanno discute più a lungo. Il donativo che nasce nell'ambito del Parlamento, dei parlamenti, delle assemblee parlamentari, delle assemblee di stati, e che quindi è in qualche modo connesso con un rapporto di natura fattizia tra sovrani e sudditi, che ha natura fattizia, anche se nella forma continua ad essere l'accezione libera, incondizionata, e che non può essere mai richiamato in conseguenza, non forma mai il precedente al quale il sovrano possa in futuro abbigliarsi per richiedere una uguale o superiore largizione. Se c'è un elemento importante nella riflessione quotidiana, è proprio quello della consapevolezza di una ambiguità del donativo al suo tempo, cioè quell'essere il donativo a mezza strada tra la largizione spontanea di tipo medievale, migliorare, e un'altra cosa, cioè il tributo giuridicamente determinato e imposto, l'imposizione. C'è un passaggio importante nel capitolo secondo del libro sesto, in cui Bodin dice, possiamo vedere più in particolare, parlando delle donazioni, dei doni dei soggetti come uno dei mezzi per fornire fondi allo Stato, uno dei mezzi legittimi per fornire fondi allo Stato, e quanto alle donazioni, ai doni e ai donativi dei soggetti, ciò che gli antichi chiamavano oblazione, a giorno d'oggi ce ne sono poche o nessuna. Perché i donativi, nella forma della concessione graziosa, della libera concessione da parte dei soggetti, sono richiesti, sono in realtà richiesti dai sovrani. Per esempio, il re di Spagna, il re d'Inghilterra e altri usano delle suppliche, delle preghiere per ottenere. E c'è in quelle suppliche molto più di costrizione di quanta non ce ne sia nella diretta imposizione che è fatta con le commissioni, con le lettere di comando da re di Francia. In realtà c'è molta più costrizione nel donativo, che formalmente si presenta come una libera, spontanea donazione da parte dei soggetti, come una donazione che non può essere richiamata in conseguenza, come una libera concessione. C'è molta più costrizione nel donativo di quanto non ce ne sia nella imposizione giuridicamente determinata. Si può dire la stessa cosa proprio per quella imposta che gli spagnoli chiamano, dice il francese, service, cioè servei nella forma catalana, servizio ovvero nella forma castigliana, cioè il nome che nella tradizione ispanica prende il donativo, appunto, votato nelle cortes, negli stamens, nell'area catalano-aragonese, il servizio, che tradizionalmente è octroyé, è concesso volontariamente ai re di Spagna perché possano intrattenere più onestamente il loro stato, e che poi si è convertito quasi completamente a un charge ordinaire, in una imposta ordinaria. Allora, in questo passo come dice che della natura della donazione non resta nulla, resta il nome donativo, ma il servizio che si dà nella forma della concessione si è in realtà trasformato in una imposizione. Vi dico subito che questo passo, che si vede nell'edizione francese, in tutte le edizioni francesi, non si legge più nell'edizione latina. È scomparso. E forse l'unico passaggio del testo della Repubblica che contenga un elemento di forte novità rispetto ad una trattazione che si presenta agli occhi dei moderni lettori come ambigua. Perché? Perché nella trattazione del tema delle finanze, contrariamente a quello che potrebbe apparire dalla sua concezione più generale della sovranità, cioè come potere di dare e mutare la legge anche senza il consenso dei sudditi, dei soggetti, ritiene necessario nel momento della imposizione il consenso dei soggetti. Non si dà imposizione senza consenso. Il consenso all'imposta è uno dei temi caratteristici della tradizione bodiniana, ma è anche uno di quei temi che hanno fatto parlare di una ambiguità sostanziale del pensiero bodiniano. Perché Bodin resta non solo legato in qualche modo alla richiesta che proviene dagli Stati Generali costantemente di concedere, o meglio, di formulare la la imposizione nei termini di una nazione, ma richiama a questo proposito autori che hanno in qualche modo continuato a teorizzare nella seconda metà del 400 il carattere libero, spontaneo, octroyé dell'imposizione. Primo fra tutti Comin, naturalmente. Che Baudelaire richiama insieme ad un contesto che è quello degli Stati Generali di Tours del 1484, ed è uno dei momenti di contrapposizione tra due visioni della fiscalità, quella regia o in parte regia, che tende naturalmente a trasformare la donazione in una imposta ordinaria, quella degli Stati Generali che tendono invece a conservare l'imposta non è altro che mortuale, una concessione graziosa e spontanea, Comin ha dei passaggi molto importanti a questo proposito. Baudelaire ne chiama uno in modo limpido, no? È il passaggio in cui Comin dice: il re d'Inghilterra ha il costume di chiedere perdonazioni ai suoi soggetti, però io rispondo che e poi gli altri re hanno il potere, non c'è nessun principe al mondo che abbia il potere di levare imposta a suo piacere sul popolo, si tratterebbe nient'altro che di una rapina, cioè di un atto di tirannia, quindi è un problema cruciale, è un problema nel quale, per esempio, secondo Maronghiu, che ha trattato della questione in uno dei suoi ultimi lavori, dimostra l'ambiguità di Baudelaire nel suo permanere con un piede nella tradizione medievale, con uno nella modernità. C'è una relazione di Maronghiu nel primo volume di Gatti del colloquio di Angers del 1984, pubblicato dalla Press dell'Università di Angers, Jean Baudin, Gatti del colloquio del maggio del 1984. Baudin il consenso all'imposta. Insomma, se è vero che gli Stati Generali si riuniscono ma senza avere alcun potere di comando, come Baudelaire dice parlando della sovranità, della utilità degli Stati Generali, dell'utilità dei corpi, dell'utilità degli Stati Generali, se è vero che la legge non può mai avere fondamento pattizio, ma è espressione di volontà, di una volontà che rimane assolutamente libera e che non può costringersi neppure da sé nella forma della auto-obbligazione, allora non si comprende come questa prerogativa della sovranità che consiste nell'imporre ai soggetti la tassazione, invece, abbia bisogno del consenso. È vero che Baudelaire introduce il tema della necessità, dello stato di necessità, il tema dello stato di eccezione. Ma Maronghiu dice che questo tema è tutto sommato marginale, insomma, ed è posto in un modo tale da lasciar suggerire che si tratti di una sorta di correzione ad una impostazione troppo rigorosa in termini dottrinali del tema. La frase che prima vi ho letto, cioè quella che parla di una trasformazione, del donativo da libera elargizione a imposizione ordinaria, è una frase che in realtà ha dato qualche fastidio a perché subito dopo l'apparizione, la prima edizione della Repubblica, un signore che si chiamava Michel de la Serre scrisse un appello accusando Baudin di essere autore di una dottrina sediziosa, proprio perché in qualche modo metteva in discussione, richiamandosi alla, al donativo, alla donazione, alla libera elargizione, il potere del re. Cioè c'era anche in quel momento chi era più realista del re e in questo caso più attento ai problemi della sovranità dello stesso Marongiu, che sostiene, e questo è uno dei punti cruciali, fa un riferimento molto interessante a un certo momento, anche se lui non ha capito, in questo caso, non ha capito molto bene di cosa si parlava. Dice che il fatto che Baudin citi Comines e che quindi ricordi che il consenso è necessario nel momento del prelievo, fiscale, significa che Baudin era cosciente, consapevole di tutto il contenuto della riflessione di Comines. E la riflessione di Comines è più completa e complessa e contiene una domanda, che Marron dice è una domanda retorica. Vale a dire, com'è possibile che il principe abbia il diritto di prendere a suo piacere ciò che ordinariamente i suoi soggetti già gli donano con liberalità? Nessun principe può levare imposte se non par octroi, per concessione. Se egli non lo fa in questo modo, deve farlo par tirannia, tiranneggiando, e chi ne sua ex comine, e perciò deve essere scomunicato. Marongiu commenta dicendo che Comines evocava in questo modo la dottrina medievale della competenza del Papa a giudicare i tiranni. In realtà Comines evocava la buona cena da lui. È molto bello, ma Marongiu non lo aveva colto, Evocava Comines la buona cena, la scomunica che il Papa fulminava tradizionalmente nella buona cena da lui contro i principi esattori, autori di esazioni violente per costrizione. Allora, Baudin conosce tutti questi passaggi e se richiama Comines, lo richiama naturalmente avendo in mente implicitamente questo passaggio, sapendo bene di che cosa parla. Ora, Marongiu aggiunge un'altra cosa. Marongiu dice che bisogna vedere se questa correzione bodiniana, salvo che vi sia stata necessità, salvo che vi sia l'eccezione, per esempio l'urgenza della guerra, con molte cautele però, potremmo dire sappiamo bene che il motivo della guerra è tirato in ballo molte volte dai principi tiranni al solo scopo di imporre delle nuove esazioni, e le nuove esazioni restano poi anche finita l'urgenza della guerra. Allora, è un atto tirannico, ma è cosa che si inserisce in una tradizione che vi dico studentico, bartolista, no? È una delle 10 cautele tirannici. Allora, però Marongiu dice, bisognerebbe vedere in una futura edizione critica della Repubblica se la legazione del caso di necessità non sia stata una correzione, che Baudin ha fatto per evitare di dare un taglio troppo rigido, alla sua dottrina, di essere conseguente alla sua dottrina. Può darsi che una futura edizione critica della Repubblica ci consenta di magari di capire che si tratta di aggiunte, di correzioni. In realtà, Baudin cita Comines, c'è una piccola aggiunta che riguarda l'edizione latina del Greek, e qui nel mio testo, quella che adesso è la nota 95, non so se lo prenderà nel testo stesso. Ecco, il passaggio è questo. Fu anche deciso dagli stati del regno, per esempio il re Filippo di Valvano nel 1338, che non sarebbe stata levata alcuna imposta sul popolo senza il suo consenso, cosa che è sempre stata, e lo è ancora, osservata in Spagna, in Inghilterra e in Germania. E agli stati tenuti a Tours sotto Carlo VIII, sono proprio quelli che partecipa con Mine, che poi originano quella riflessione, fu fatta rimostranza da Filippo di Tournini, che non c'è principe che abbia il potere di levare imposte sui sudditi né prescrivere tale diritto se non col loro consenso. Una nota mia che rinvia ad un ampliamento della edizione latina dice questo. Ecco, si tratta di Comin Memoir 519, se volete andare a controllare l'edizione Calmet, sta nel secondo volume, le pagine 218-219. Si tratta di un episodio che era stato richiamato dal problema del libro primo, nel capitolo ottavo, che è appunto il capitolo sulla sovranità. Il testo viene sviluppato nell'edizione latina, dove dice: benché il re Luigi XI, che è notoriamente un principe che è molto propenso a scivolare verso forme tirannide, no? Di potere, di re della grande contesa con Carlo il Generale. E benché il re Luigi XI fosse costretto da una guerra assai difficile e pericolosa a richiedere a titolo di tributo nell'ultimo anno del suo regno quasi 80.000 sesterzi, qui il testo latino che riduce nella forma classica la somma in lire tornesi, oltre alle imposte ordinarie sui beni immobili, tuttavia gli stati generali riuniti a Tours all'inizio del regno di Carlo VIII fecero l'offerta di quei tributi annui che erano stati evasi, mentre la stessa oblazione, il donativo, di 7.000 sesterzi che avevano offerto a Carlo VII decisero di immetterla nell'erario a titolo di donativo. Somma che gli ordini deliberarono di offrire una tantum, senza possibilità di iterazione in futuro. E Filippo di Comin, che allora prendeva parte al pubblico consiglio, disse, eccetera. Non c'è quindi un ampliamento significativo, non c'è nessuna correzione, non c'è nessuna significativa modifica nel testo. La sola significativa modifica è la soppressione di quella frase in cui si dice che il donativo ormai si è trasformato quasi ovunque in una imposta ordinaria, in una imposizione ordinaria. Quella frase scompare. E scompare in un contesto abbastanza importante, in un contesto abbastanza importante, cioè laddove Godin parla appunto del terzo mezzo per procurare finanze allo Stato, tra i sette che egli denuncia, no? Il terzo mezzo che è appunto quello di ricevere doni da amici o sudditi, la donazione. È la frase introduttiva. Quanto ai doni dei sudditi, che gli antichi chiamavano donazioni, essi sono oggi poco o niente praticati. Anche i doni gratuiti e caritativi sono in realtà richiesti. E benché le Spagna, l'Inghilterra e gli altri paesi usino preghiere per ottenerli, è pur vero che c'è più forza coercitiva in tali preghiere che non in commissioni di legge reformate. Perdono invece io intendo ciò che è liberamente offerto dal suddito al principe. È chiaro che si suggerisce in modo esplicito, netto, senza equivoci, che le forme tradizionali usate negli stati generali non sono libera donazione, ma sono ormai a pieno titolo una imposizione ordinaria. Godin aveva fatto insomma un passo fuori dalla tradizione medievale, fuori dalla tradizione medievale, e quel passo lo ha in qualche modo, se vuoi rimandare, lo ha fatto all'indietro nel testo latino, in anni forse più difficili, o forse anche in seguito alle polemiche, ma forse soprattutto perché quel testo era destinato ad una cultura diversa e ad un lettore diverso, dal lettore francese, forse perché era destinato proprio a quel ceto di giuristi quel centro di giuristi, a quel centro di giuristi che sì, forse insieme a lui, forse un po' più lentamente di lui, traghettava i concetti, ma era ancora molto legato alla tradizione nazionale francese, no? Alla quale dobbiamo seguire. Resisterà anche in seguito. Lo stesso Marongi dà notizia di momenti successivi, anche di parecchi anni alla pubblicazione della Repubblica, in cui Luigi XIII ha ancora difficoltà a sostenere, grande difficoltà a sostenere il contrario rispetto ai Bernardini, no? Si parla innanzitutto del 1578, ecco, a pochi anni di distanza dalla Repubblica, si fa riferimento al testo dell'italiano Marco Zambini, no? Il cortigiano di Caterina de' Medici, che scrive un testo sulle età del Fons e della Puissons, riassume insomma la pratica dell'imposizione parlando della difesa, ecco, delle carattere di sovvenzione che il diritto ha, ma si parla anche qui di caso di necessità, della esigenza, ecco, che il sovrano tenga presente il caso di necessità, ma più avanti nel tempo, sotto Enrico IV, sotto Luigi XIII, la difficoltà si rivela ancora forte e persino nel 1760 c'è ancora Marongi, lo stesso Mirabeau, che aveva osato assumere una posizione più decisa, dicendo se l'autorità sovrana assoluta implica il diritto di imposizione sopra i popoli, allora questo che si è fatto vedere in modo rigoroso è molto serio per affermare in questo punto. Insomma, c'è una tradizione francese che tende a conservare il modello della nazione, un modello che a un certo momento sembra superato, e sembra superato proprio perché vorrebbe costituire una scienza nel suo capitolo sulle finanze, che poi naturalmente è pieno di quelli di anni alla letteratura teologica e scrittura testamentaria, che è abbastanza pesante. Ma, insomma, in questo capitolo è chiaro che cosa si vuole fare, no? È necessario avere vera conoscenza delle finanze, nerve dello Stato, secondo questo. Bisogna conoscere, avere vera conoscenza, scienza, metodi onesti per avere fondi, dei mezzi per impiegare, dei mezzi per risparmiare, per riservare parte per i casi di necessità. Molti grandi dottori mi hanno trattato, ma essi non hanno mai avuto vera scienza, sono piuttosto maestri di astuzie, cioè maestri di quei mezzi illeciti o disonesti che bisogna disporre che le finanze siano costruite e assicurate su un fondamento certo e durevole, cioè come un'esigenza di certezza che cammina di pari passo con un'esigenza di positivizzazione e di certezza anche nell'ambito dell'innovazione, che è secondo me fondamentale in questo testo, ma con questa oscillazione, questa timidezza a proposito di un'affermazione che invece sembra davvero portarci in un orizzonte nuovo rispetto alla tradizione. Tante cose si potrebbero dire, insomma, forse mi credo anche che già troppo. A leggere nella nuova forma. Poi dico anche che io in questi anni mi sono occupato della dottrina e poi, non solo per curiosità, insomma, mi sono occupato di un Parlamento, cioè dell'ultimo Parlamento di Filippo II, che è quello di Gastone di Moncada, il marchese di Altona, che è degli anni 92-94. E ne sto pubblicando gli atti. E naturalmente la parte più interessante è quella che riguarda il donativo e i meccanismi di formazione in Parlamento, ma soprattutto fuori del Parlamento, del donativo, che in quel caso aumentò del 25%, passando da 100.000 a 125.000. La cosa più interessante naturalmente è tutta la serie delle consulte del Consiglio Supremo d'Aragona con le postille di mano ormai tremolante del vecchio Filippo II. Direi che forse l'oscillazione bodiniana trova un riscontro nell'oscillazione della pratica politica del tempo. Non è così vero che si trattasse poi di una imposizione. Sì, il carattere straordinario in realtà non rimane altro assolutamente libero, puoi dire che nella forma, e tuttavia il carattere pattizio è ancora molto forte nel momento del confronto tra corona e stati riuniti in Parlamento, con dopo teste, i lavori parlamentari, con la concessione di grazie e di privilegi che arrivano uno per liberare gli stamenti, gli stati dal loro impaccio, con le più forti resistenze da parte dello stamento, che naturalmente ha finito per perdere e che, come sappiamo, l'ecclesiastico. Ed è interessante vedere come nello stesso turno di anni sono le forme di resistenza che sono al di là di quelle che sono le resistenze dell'ecclesiastico come stamento hanno naturalmente la radice dello Stato, lo stamento hanno non solo una ragione di carattere contingente, hanno delle ragioni che sono appunto nella tradizione retrotestamentaria e in quel passaggio tra Primo dei Re e il 14° capitolo del Deuteronomio, che è appunto il capitolo che dove c'è la legge divina, c'è la legge divina che vieta di gravare i sudditi, che vieta di accumulare oro e argento, che vieta ora. È chiaro che il centro ecclesiastico, lo stamento ecclesiastico è più sensibile a questa tradizione e se ne fa strumento nel momento in cui deve resistere alla vocazione del donativo. In Godin di curioso c'è questo, se volete, alcune osservazioni di un realismo a tratti anche rivestito di ironia. Quando parla della tradizione retrotestamentaria, dice: è vero, l'Antico Testamento proibisce ai re di accumulare grandi tesori, ma non c'è pericolo che i re di Francia lo facciano. Né oggi né per l'avvenire. Ecco. No, è interessante, c'è un intreccio di tradizione testamentaria, teologica, giuridica e di prassi politica, e poi si può sfruttare dove naturalmente non ci si limiti alla pura e semplice registrazione degli atti parlamentari, ma dove si riesce a trovare la consulta, dove si riesce a trovare l'epistolario. Io l'ho trovato solo per lo stato reale, insomma, per il terzo stato, ma è molto interessante. poi, negli anni della Repubblica, pur senza assumere il carattere costoso che avrà, come ha dimostrato Meunier nel XVII secolo, è però già abbondantemente ricco. Così, ecco, fra il paradigma donazione in posizione, consenso in posizione, che si iscrive in una struttura originaria di radici, insomma, molteplici, ecco, la concretezza di quella tangentopoli d'epoca, che era la realtà del che rapporto si pone adesso nel processo che rapporto ci sia. Ultima piccolissima chiosa, per quanto dicevi da ultimo sull'aspetto pattizio, sovranità, ordini, ecco, il reverse del grande elettore del 1653 per la marca di Brandeburgo è un documento che si scrive molto bene in questo modo. Anche linguisticamente. Sì, sì, qualcosa di rigido nei caratteri pattizio rimane, cioè, dopo tutto cosa dice che i patti tutti ti dovrà tenere voi, no? Non restano un po' di potere del sovrano, i patti, perché i patti sono talmente naturali, perché talmente naturale nasce l'obbligazione, quindi il rispetto dei patti, la parola del principe che deve essere come un oracolo, no? Che cosa sa? È il fondamento pattizio della norma di giustizia, che lui non accetta, respinge, contrariamente alla garanzia di Spagna, ben lunga. Invece, importante il tema della renalità del giudice delle carte, non è nettamente ostile, la vendita degli uffici, ostile la vendita degli uffici e soprattutto ostile la renalità degli uffici come mezzo per ottenere risorse da parte dello Stato, perché gli uffici appartengono alla sfera pubblica e quindi al complesso degli iura e quindi al patrimonio pubblico e in un'accezione molto vaga al demanio, che è inviolabile. Lodan si riferisce in questo caso non semplicemente ad un principio di natura ma una di quelle che poi già qualcuno al suo tempo comincia a chiamare leges fundamentales regni, la costituzione consuetudinaria del regno che ha come sua norma il carattere inalienabile del regno, una di quelle leggi fondamentali che forse un infrante vedrebbero spezzarsi la corona stessa, no? Vedrebbero nemmeno l'unità stessa del regno. Il demanio pubblico deve essere santo, sacro e inviolabile. Tant'è che il re di Francia giura, e dichiara il proprio giuramento nell'assumere il potere di non alienare il patrimonio pubblico in nessun modo. Questo vincolo sacrale anche tuttavia non sono mai mancati corruttori che hanno spesso indotto i principi a vendere parte del patrimonio pubblico, ci sono infiniti altri abusi che lo Stato è costretto a sopportare in caso di alienazione del patrimonio pubblico, eccetera, eccetera, ma soprattutto si parla è contrario all'associazione dei sudditi alla sole società sofficiose. Qui contrario. No, questo no. Non nel senso della costituzione di un collegio, di un corpo, no? Anzi, in primo luogo quando lui elenca i corpi che sono fondamentalissimi per la coesione dei soggetti, per tutto l'intero capitolo. lui stesso, peraltro lui stesso aveva ereditato una cattuglia che era pubblica a Roma, perché lo pubblica suo cognato. La benedità delle cariche è condannata in modo civile, ma in ragione di un principio di sacralità della giustizia e di assoluta riserva. Sì, alle origini della mentalità politica borghese, sì, però c'è poco. Sì, appunto, non è niente. No, questo è perché scusa, sì. In realtà, la penalità delle cariche è uno dei mezzi disonesti, uno dei mezzi illeciti per dare fondi allo Stato. No? Il settimo, che poi è quello che interessa. È quello della imposizione. C'è ancora un settimo mezzo ed è quello di trarre denaro dai sudditi. Per questo però non bisogna ricorrere, a meno che non vengano meno utilizzati, che è la necessità di provvedere allo Stato. Bene, sì. Ci sono delle cose che riguardano i suoi studi sui prezzi, la moneta, sì. Sulla moneta e anche su questo rapporto tra sfera religiosa, sfera politica e sfera economica, perché se c'è una teologia politica esiste senz'altro ed è fondamentale, da tutti è stata trascurata e continua ad essere trascurata la teologia economica. Sì. No, questo perché. Sono perfettamente d'accordo, ma cosa anzi Luisa Schumpeter, ci sono delle bellissime pagine su Jean Paul. Lo troverai citato appunto nella bibliografia del volevo dire un'altra cosa sulla questione della penalità delle cariche. Mi sembra anche che Alexis de Tocqueville e Max Weber parlino della penalità delle cariche come uno strumento positivo anche per la parte del sovrano per limitare le pretese dell'aristocrazia alla corona, e quindi il sovrano fa diventare l'aristocrazia burocrazia di osservanza regole. Tutto questo si inserisce all'interno di un patto che viene poi nel 600 in Europa, fra questa comparsa accanto alla nobiltà di spada della sulle questioni del Christus Fiscus che vengono affrontate nel doppio corpo della Re di Cantoroli, in pratica Baudelaire trasforma nel problema della finanza pubblica, dove, come appunto diceva lei, dove la finanza pubblica deve occuparsi di quello che non so, un buono, un giusto comune. Sì, però che è comune a tutti. Questo è un comune, però mi sembra che venga fuori attraverso una conflittualità piuttosto potente, cioè l'imposizione ordinaria certamente deve essere imposta col consenso, però bisogna stabilire il consenso di chi, perché ci sono i sudditi, ci sono i ceti, e nella storia europea moderna, diciamo che il conflitto fra il sovrano e i ceti, fra la corona, gli ordini, i ceti, gli stati, le cortes, è un conflitto che non tira la mano al conflitto. Sì, certo. In Francia magari in quel momento ha una maggiore importanza il conflitto tra non si legge, qui non c'è, non, quel capitolo sugli ordini, sugli ordini, sui soggetti, non esiste nel testo francese, si legge solo nel testo latino o nell'edizione italiana che lo comprende quel capitolo. In realtà c'è tutta una polemica non solo anti-egualitaristica, ma oggi noi diremmo anti-individualistica. Ciò che sostiene lo Stato è l'antico ideale della amicizia, no? della connessione, della concordia ordine, un ideale ciceronano, ma non solo, ecco, è un ideale di consociativo, è un ideale consociativo che è espresso nell'idea che gli ordini devono formarsi non solo come corpi di professione, come corpi di mestiere, ma che vi sia una catena, un rapporto strettissimo, necessario, che lega poi gli ordini ai ceti e all'ordine, in una monarchia legittima, come la chiama. E disegna proprio in quel capitolo un ordo processionis, una vera e propria processione, una vera e propria processione. Stabilendo una perfetta gerarchia e ponendo fuori dagli ordini e fuori dall'ordine giuridico, tutti i ceti improduttivi e soprattutto tutti quei gruppi e quei soggetti che non sono soggetti, perché non sono soggetti, che non sono destinatari del comando, che sono fuori dalla sovranità, i gitani, i fenomeni, quello di cui abbiamo parlato con Serrano a Napoli, no? Antonio Serrano ha scritto quel libro come logo entre Ovecas, Soberano si immaginavo, Baudin, Shakespeare, diverse, che è proprio un libro su questo. Come mai la canirsi? Io sono andato a Napoli a discutere con Antonio Serrano e gli ho portato tutta una serie di bei testi in catalano, tanto per fargli anche omaggio, visto che lui è aragonese, tratti però non da letteratura politica, ma dai parlamenti, perché l'insistenza sulla necessità di colpire i fannulloni, i vagabondi, coloro che non hanno un mestiere, che non possono essere iscritti in un ordine, costante. Allora è bellissimo vedere come ci sia una specularità quasi perfetta, no? Però non c'è ancora una concezione di un soggetto che è il soggetto di una realtà di eguagliamento, no? sotto una medesima volontà ordinatrice. Donne che appartenevano a diversa, e c'è una sì. Alla fine questo, cioè che Salomone solamente non avevi, come dice magna pondera, auri e argenti, immensa pondera, ecco il testo scritturale nella Vulgata poi dice questo, auri e argenti, immensa pondera. E c'è una letteratura giuridico-politica, soprattutto in ambito trecentesco, che assume questo passo veterotestamentario per costruirci sopra una, oggi la chiameremo una dottrina dello Stato, no? Cioè parte da quel passaggio veterotestamentario per glossarlo al modo del giurista e dire questo significa che il re non può esigere dai suoi sudditi più di quanto gli sia concesso dai suoi sudditi. E lì si forma lo schema, lì si forma lo schema, che poi nella letteratura veterotestamentaria sia difficile con gli occhi della critica di oggi vedere quelle stesse cose, lo ammetto, ma la tradizione medievale parte da lì, al Bibbio. La tradizione medievale, tutte le citazioni dal Deuteronomio, dal Pentateuco, secondo me prese anche quando viene il dibattito teologico sulla questione della forma io un allievo a studiare queste cose perché le ho studiate un po' anch'io, perché mi sono occupato di dottrine anti-usurarie come dottrine anti-ebraiche, anti-giudaiche nel 400, ci sono delle dispute molto interessanti, ma continuano ancora oggi. Legittimità sostanzialmente a questa politica nuova principessa della confisca. condannarsene, la confisca, la pubblicazione bonorum non può avere fondamento nella legge divina, anzi, disobbedisce chiaramente alla legge divina, per il semplice la legge divina e alla legge naturale, per il fatto che colpisce un soggetto diverso dal proprietario, quando anche sia applicata come sanzione, come pena, nei crimini più gravi, come i crimini prossimi al sacrilegio, no? Gli stati, se per definizione il crimine prossimo al sacrilegio, perché colpisce i discendenti, perché li priva, dei beni, cioè perché colpisce un principio che è di natura teologica, ma anche, diciamo, teologico giuridica, colpisce Dio insieme, la legge di Dio è quella di natura, no? La confisca è, non è ammissibile per questo, sarebbe come, cioè il parallelo è questo, come se il magistrato si arrogasse di stabilire una pena contraria a quella prevista dalla legge del sovrano. Come il magistrato non può fare nulla di tutto ciò, anzi deve limitarsi a applicare, ad eseguire, per questo il primo conato di positivizzazione della legge penale, della pena, è su basi teologiche, è la base di questa. Per questo la confisca è respinta in modo rigoroso. Non c'è un ragionamento di tipo tecnico giuridico, c'è solo questo schema. Gracias. processuale in materia penale, non è vero che c'è un processo di mitigazione, ci sono reati per i quali invece c'è un processo di inasprimento, per esempio. E sono quei reati che sono, connessi con la sfera dei comportamenti sessuali. Sono tradizionalista in modo assoluto, no? Per cui anche l'orologio biologico non riesco a tirare una segnale di ciò che non comincia a credere come no, allora il problema è centrale, è il rapporto tra il capitolo 8 del primo libro e il capitolo 5. Si è sempre fatto un'arma contro il re. Ma c'è da rispondere che su questo punto, gli altri re non hanno più potere del regno di terra, perché non è il potere che è il principe del mondo, ma sta citando la lettera Comini, senza dire, lo dice lui. Non è il potere che è il principe del mondo il denaro imposto al suo arbitrio dal suo popolo, come molto saggiamente dice Filippo di Comini parlando della dimostranza. Il mondo saggiamente è scomparso nel libro 6, c'è solo la situazione di Comini, poi guardate la Comini. E possiamo leggere ciò nelle sue memorie. D'altronde, se la necessità è imperdente, nessun principe ha l'obbligo di attendere che si riuniscano gli stati e il popolo dia il consenso, perché la sapienza del popolo dipende proprio dalla diligenza e dalla previdenza del principe sacro, come il io direi una cosa, c'è un ideale che qui a un certo punto poi emerge e che è quello della vecchia regalità francese, non di Luigi IX, di Luigi il Santo. Tutto sommato il documento al quale Godin si appiglia per giustificare questa sua posizione, che potrebbe sembrare appunto che è soprattutto una rondo che è ambigua. Io sostengo che tutta la Repubblica è ambigua, siamo noi che abbiamo bisogno di